Brichot, per cambiare discorso, mi domandò se contavo di restare ancora a lungo a Ankerville. Invano gli avevo fatto notare a più riprese che non abitavo a Ankerville, ma a Balbec. Ricadeva sempre nel solito errore, giacché era col nome di Ankerville o di Balbec Ankerville che egli designava quella parte del litorale. Ci sono persone che parlano delle stesse cose di cui parliamo noi, chiamandole con nomi un po' diversi. Una certa dama del Faubourg Saint-Germain mi chiedeva sempre, quando voleva parlare della duchessa di Guermantes, se era molto che non vedevo Zénaïde o Orient Zénaïde, con la conseguenza che sulle prime non capivo a chi si riferisse. Probabilmente c'era stato un periodo in cui, poiché una parente di Madame de Guermantes si chiamava Orient, si alludeva a lei, per evitare confusioni, come a Orient Zénaïde. Così forse all'inizio c'era stata una sola stazione a Ankerville e di là si raggiungeva Balbec in carrozza. «Di cosa mai stavate parlando?» chiese Albertine, stupita del tono solenne da padre di famiglia usurpato dal signor di Charlus. «Di Balzac», s'affrettò a rispondere il barone, «e voi stasera indossate per appunto l'abito della principessa di Cadignan. Non il primo, quello del pranzo, ma il secondo». Questa coincidenza era dovuta al fatto che per scegliere degli abiti ad Albertine io mi ispiravo al gusto che lei s'era formato grazie a Elstir, il quale apprezzava molto una sobrietà che si sarebbe potuta definire britannica se non vi si fosse mischiato un di più di dolcezza, di mollezza francese. Generalmente i vestiti preferiti dal pittore offrivano agli sguardi un'armoniosa combinazione di grigi come quello di Diane de Cadignan. E si può dire che il signor di Charlus fosse il solo a saper apprezzare in tutto il loro valore le toilette di Albertine. I suoi occhi scoprivano subito quel che ne faceva la rarità, il pregio. Non avrebbe mai detto il nome d'una stoffa per un'altra e ne riconosceva la provenienza. Solo che per le donne preferiva un po' più di vivacità e di colore di quanto non ne ammettesse Elstir. Così quella sera Albertine mi lanciò uno sguardo a metà sorridente, a metà inquieto, chinando il roseo nasino da gatta. In effetti, incrociata sulla gonna di crêpe de chine grigio, la sua giacca grigia di cheviot lasciava supporre che Albertine fosse interamente in grigio. Ma facendomi cenno d'aiutarla, perché le maniche a sbuffo dovevano essere appiattite o rimboccate per poter infilare o sfilare la giacca, se la tolse. E poiché quelle maniche erano d'uno scozzese molto tenue, rosa, azzurro pallido, verdino, bianco perlaceo, fu come se in un cielo grigio si fosse disegnato un arcobaleno. E la mia amica si chiedeva se sarebbe piaciuto al signor di Charlus. «Ah!» esclamò questi rapito. «Ecco un raggio, un prisma di colore. Vi faccio i miei più vivi complimenti. Ma il merito è tutto di questo signore», precisò gentilmente Albertine indicandomi, perché amava denunciare quanto le veniva da me. «Solo le donne che non sanno vestirsi hanno paura del colore», riprese Charlus. «Si può essere vivaci senza volgarità e dolci senza insipidezza. D'altronde, non avete le stesse ragioni di Madame de Cadignan per voler apparire distaccata dalla vita, giacché era questa l'idea che ella voleva inculcare ad Arthez con la sua toilette grigia». Interessata al linguaggio muto dei vestiti, Albertine chiese a Charlus di parlarle della principessa di Cadignan. «Ah, è un racconto squisito», disse il barone con un tono sognante. «Conosco il piccolo giardino dove Diane de Cadignan passeggiò con Madame de Spa. Appartiene a una mia cugina». «Tutte queste storie del giardino di sua cugina», bisbigliò Brichot a Cottard, «possono, proprio come la sua genealogia, rivestire qualche importanza per il nostro esimio barone. Ma che interesse possono mai avere per noi che non abbiamo il privilegio di andarci a passeggio? Non conosciamo quella dama e non possediamo titoli nobiliari». Brichot infatti non sospettava che ci si potesse interessare a un vestito, a un giardino, come a un'opera d'arte, e che i vialetti di Madame de Cadignan, il signor di Charlus, li rivedesse come nelle pagine di Balzac, rivolgendosi a me. «Ma voi la conoscete?» mi disse il barone, alludendo alla cugina e volendo lusingarmi col riferirsi a me come a chi, esiliato nel piccolo clan, era per lui, se non uno del suo mondo, perlomeno uno che frequentava il suo mondo. «In ogni caso, l'avete certo incontrata da Madame de Villeparisis, la marchesa di Villeparisis alla quale appartiene il castello di Beaucroix?» chiese Brichot, interessatissimo. «Sì, la conoscete?» disse seccamente Charlus. «Per niente», rispose Brichot, «ma il nostro collega Norpois passa ogni anno a Beaucroix una parte delle sue vacanze. Ho avuto occasione di scrivergli a quell'indirizzo». Dissi a Morel, pensando di interessarlo, che il signor di Norpois era amico di mio padre. Ma non un movimento del suo volto testimoniò che mi avesse sentito, tanto scarsa era la considerazione che aveva per i miei genitori, lontanissimi, a suo avviso, da quel che era stato il mio prozio, per il quale suo padre aveva lavorato come cameriere, che d'altronde, abbastanza proclive, contrariamente al resto della famiglia, a darsi delle arie, aveva lasciato nei suoi domestici un ricordo di magnificenza. Pare che Madame de Villeparisis sia una donna superiore, ma non sono mai stato ammesso a giudicarla di persona, né più né meno d'altronde che i miei colleghi. Norpois, infatti, che pure all'Institut è pieno d'affabilità e di cortesia, non ha presentato nessuno di noi alla marchesa. Mi risulta che abbia ricevuto soltanto il nostro amico Thoureau d'Agen, che aveva con lei vecchi rapporti di famiglia, e anche Gaston Boissier, che la marchesa ha desiderato conoscere per via di un suo scritto che l'interessava in modo particolare. Ha pranzato una volta da lei ed è tornato entusiasta. Madame Boissier, però, non è stata invitata. All'udire quei nomi, Morel sorrise commosso. «Ah, Thoureau d'Agen», mi disse, tanto interessato adesso quanto era rimasto indifferente sentendo parlare del marchese di Norpois e di mio padre. «Thoureau d'Agen e vostro zio erano amicissimi. Quando una signora voleva un posto centrale per una cerimonia all'Académie, vostro zio diceva: "Scriverò a Thoureau d'Agen". E naturalmente l'invito arrivava subito, perché il signor Thoureau d'Agen, come potete ben capire, non si sarebbe mai azzardato a rifiutare qualcosa a vostro zio, che l'avrebbe aspettato al varco. Anche sentire il nome Boissier mi diverte, perché era là che vostro zio faceva fare acquisti per le signore a Capodanno. Lo so, perché conosco la persona cui ne veniva affidato l'incarico. Altro che conoscerlo, era suo padre. Alcune delle affettuose allusioni di Morel alla memoria di mio zio si riferivano al fatto che non contavamo di restare per sempre a Palazzo Guermantes, dove eravamo andati ad abitare soltanto a causa della nonna. Si parlava ogni tanto d'un possibile trasloco. Ora, per capire i consigli che Charles Morel mi dava sull'argomento, bisognava sapere che un tempo il mio prozio abitava al numero 40 bis di Boulevard Malesherbes. Ne era conseguito che in famiglia, poiché fino al giorno fatale in cui provocai la rottura fra i miei genitori e lui, raccontando la storia della dama in rosa, andavamo molto spesso dallo zio Adolphe. Invece di dire dallo zio, si diceva al 40 bis. Certe cugine della mamma le dicevano con la più assoluta naturalezza: «Ah, domenica non possiamo invitarvi, pranzate al 40 bis». Se andavo a trovare una parente, mi si raccomandava di passare innanzitutto al 40 bis, perché lo zio non s'offendesse di non essere al primo posto. Era proprietario dello stabile e si mostrava, per la verità, molto difficile quanto alla scelta degli inquilini, che erano tutti suoi amici, oppure lo diventavano. Il colonnello barone di Vatry andava ogni giorno a fumare un sigaro da lui per ottenere più facilmente dei lavori di riparazione. La porta carraia era sempre chiusa. Se scorgeva un capo di biancheria, un tappeto o una finestra, lo zio diventava furioso e li faceva ritirare più rapidamente di quanto non facciano oggi le guardie comunali. Ma tutto questo non gli impediva di affittare una parte della casa, non tenendo per sé che due piani e le scuderie. Nonostante ciò, poiché si sapeva di fargli piacere vantando la buona manutenzione della casa, si celebrava il comfort del palazzotto come se lo zio ne fosse stato il solo occupante e lui lasciava dire, senza opporre la doverosa smentita formale. Confortevole, il palazzotto lo era di sicuro. Lo zio vi introduceva tutte le invenzioni dell'epoca. Ma non aveva niente di straordinario. Solo lo zio, pur chiamandolo con falsa modestia la mia catapecchia, era persuaso e in ogni caso ne aveva inculcato l'idea al suo cameriere, alla moglie di questi, al cocchiere, alla cuoca, che niente a Parigi fosse paragonabile a quel palazzotto per comodità, lusso e piacevolezza. Charles Morel era cresciuto in questa fede, perseverava in essa. Così anche i giorni in cui non parlava con me, se in treno facevo cenno a qualcuno della possibilità d'un trasloco, subito mi sorrideva e strizzando l'occhio con aria d'intesa mi diceva quel che ci vorrebbe qualcosa sul tipo del 40 bis, là sì che vi trovereste bene. Si può ben dire che vostro zio se ne intendesse, ci scommetterei che in tutta Parigi non c'è niente che valga il 40 bis».